in questa società, società di merda, ma che ci aiuterà? Siamo ormai stanchi di essere usati, bravo gran coglione, che ormai li hai votati! Campagne elettorali, terrestri sui giornali, tutte le promesse fatte ai meridionali! Questa è l'Italia, che tu avevi in mente, ma il tuo interesse te ne fotti della gente! Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Questo è il tuo governo, cavaliere nero è venuto dall'inferno. Quello che cercavi ora non trovi più, fatti manipolare dalla radio alla TV. L'Europa è la tua nazione, per cercare di obiettare, sempre andare a prigione. Sopravvivi sempre per un pezzo di pane, fatti la valigia o sono morto